Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti. Parleremo di candidati doppi e di doppie candidature, di qualche lacuna nel cantico delle creature, di ossequi linguistici, nonché della patologia altrui come tocca sana della propria.